vita cresci tu, l'avvalora in me, tu sei mio lume. Di angelica compir le illustri brame, s'affretta il sole a ricondurne il giorno. Questo a noti segnali è il tuo soggiorno, dove la maga in suo poter superba non mi paventa. Ed è la pianta quella a cui svellersi dee l'aurato rano. Per l'ingresso ottener svellersi dee, lo svellerò su mie robuste braccia, voi ministre del cuore non mancate al gran vuoto. Ma guerriero ti arresta, che non de destra rapace usurparsi il tesor dei rani aurati. Insano, un capi audace, di te non vidi. A farti saggio, sappi che svelgo il ramo d'oro, amanti io servo alla beltà adoro. Che risolsi obbedir l'amato cenno, ed a chi obbedir vuole diventa lieve ogni più grave impresa. A sanar tua follia soverchio ardita, trarte la saria d'uovo insieme con l'alba. Ma ti scusa il tuo amor, sappi più saggio quest'impresa abbandona, sappi che amante anch'io servo al mio bene, che questa bella pianta è fortunata, viene d'ersi l'amata, e ad ersi l'obbedendo, argillano sono io che la difendo. E difendila dunque, avrai venuto di aver tanto valor quanta arroganza. A lui detti lombani, provar con lasciami il ferro! Vedi la mia sorte, hai vinto! Ma se tu cadi, sai quanti rossore vuoi non cuor d'amatore, che infelice servir amato bene, per pietà delle pene toglimi di dover vinto arrossire del mal difeso bravo a miedersilla. Fu suo dono quel brando, brando fatale, temprato lo destige per atterrare il suo nemico Orlando. Vinto e l'è delusa, per pietade, uccidimi guerriero, che uccidendo Argillano non anderai di nobil polvo. Due fiate trionfa il vincitore, con esser di pietà cortese al vinto. Con freno mestirai, ti rendo il ferro, e di Orlando tua man faccia pur scempio. Vivi a questa speranza, io del mio bene intanto i voti adempio. Mandersilla librando illustre fu a questa destra un ornamento vano, la destra d'Argillano ostentarla non de nemmeno in tuo dono. Vada l'egletto al suolo e tu illustre guerrier, tu avventuroso tra mille